L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Vi facciamo sentire subito in apertura un passaggio del trailer del film che si intitola Behind the Label, che è un documentario sul mondo del cotone in India, di cui parliamo in questa puntata. La vita di un contadino è molto dura. Non ha tempo di dormire. Non vede mai la moglie e i figli. Nel negozio di sementi ci avevano detto che il cotone transgenico avrebbe avuto una resa migliore. Ecco perché l'abbiamo comprato. Poi però abbiamo scoperto che non era così. Abbiamo perso un sacco di soldi. È un problema nostro. Non c'è nulla che possiamo fare. È un'ingiustizia. Quell'anno il raccolto era andato male. Mio marito si aggirava per casa senza meta. Si è ucciso col pesticida. C'è un po' di tutto in questo documentario, che è un'inchiesta, racconto nata per capire cosa si nasconde dietro la diffusione di piante geneticamente modificate nella coltivazione del cotone in India, che è, lo sappiamo bene, uno dei più grandi paesi della terra ed è il secondo produttore mondiale di una fibra che usiamo tutti i giorni per le più disparate applicazioni. Il regista di questo documentario è Sebastiano Tecchio, benvenuto. Buongiorno, grazie. L'altro nostro ospite, abbiamo dato così una piccola spia, prima abbiamo parlato di piante geneticamente modificate, l'altro ospite è Marcello Bugliatti, professore di genetica presso l'Università di Firenze. Benvenuto anche a lei. Eccolo qua. Ovviamente partiamo dal regista, perché ci deve spiegare un po' qual è l'origine di questo film, i motivi che l'hanno portata, Tecchio, a fare un'inchiesta così approfondita, così precisa, così toccante poi anche come risultato finale. Beh, guardi, l'idea nasce da la volontà della produttrice, che è Barbara Ceschi a Santa Croce, di fare un po' di luce su quello che c'è dietro il mondo del cotone, e insieme a Cecilia Mastrantonio, che è coautrice insieme a me, abbiamo iniziato a fare una ricerca, scoprendo molte cose interessanti su quello che è il mondo dietro ai vestiti, agli asciugamani, alle lenzuola che noi tutti i giorni ci indossiamo, usiamo per l'uso quotidiano. Quindi è nato così, come per passione, diciamo. Con una curiosità che poi vi ha portato lungo un percorso che in qualche modo immaginavate, che è stato del tutto una scoperta. Com'è andata? No, è stata una scoperta, e anche una scoperta, insomma, difficile da fare, perché in realtà noi non ci rendiamo conto di quello che è il mondo del cotone. In India è molto visibile, soprattutto per il fatto che dal 2002 è stato introdotto il cotone OGM, i semi geneticamente modificati, che hanno sconvolto tutto lo scenario sia sociale sia ambientale di questo paese, e che hanno creato dei danni abbastanza devastanti, soprattutto per i contadini che lo coltivavano. I contadini, insomma, sono stati attratti, sono stati spinti, allettati, ecco, dalle possibilità di un guadagno facile attraverso, facile comunque, meno difficile, ecco, perché poi coltivare non è mai facile, comunque un guadagno più meno difficoltoso, attraverso la distribuzione di questi semi OGM. Vedo però nel documentario anche che c'è stato un inganno di base, cioè la Monsanto, perché poi di questa multinazionale stiamo parlando, ha introdotto illegalmente, almeno così apprendo dal documentario, dei semi con un gene in grado di rendere sterili le varietà locali. È così, Tecchio? Beh, inizialmente sì, è così. Inizialmente la Monsanto ha utilizzato questa tecnica abbastanza furba, diciamo, di introdurre dei semi nel mercato, dei semi ibridi, quindi non geneticamente modificati, ma ibridi, che però erano sterili. E quindi molti contadini si sono ritrovati con raccolti scarsi o nulli o quasi nulli, e andando in crisi si sono poi rivolti ai questi nuovi semi miracolosi, sempre della Monsanto, questa volta diciamo legalmente, venduti legalmente i semi OGM con la promessa di rese miracolose. Quindi c'è stato uno spostamento nel giro di pochissimi anni dal cotone convenzionale, che aveva tutti i problemi che ha il cotone convenzionale con molto uso di molti pesticidi, ai semi OGM che promettevano ricchezze facili e che poi non hanno mantenuto. Tutto questo a voi l'ha confessato l'ex direttore commerciale di Monsanto India, di cui non dico il nome perché è difficilissimo, ma comunque l'ha detto, quindi non è un'illazione, ecco. No, non è un'illazione, quella del seme Terminator è una testimonianza, ce l'ha data appunto l'ex direttore commerciale, non abbiamo prove di questo, però abbiamo raccolto molte testimonianze di contadini che di fatto si sono trovati con raccolti nulli o comunque con semi che non potevano essere riprodotti, quindi la tesi che sia stato introdotto questo gene Terminator è plausibile. Marcello Buiatti, come appunto professore di genetica, quindi esperto del settore, torna a questo discorso, è possibile? Sì, possibile, senz'altro possibile. Il gene Terminator non è ammesso perché è stato bloccato a suo tempo, che non significa che Monsanto non l'abbia usato, naturalmente. Questo non sarebbe niente di strano, visto i comportamenti che usa generalmente Monsanto in varie situazioni. Ma il dato fondamentale non è tanto il primo pezzo serviva soltanto poi a sollecitare l'introduzione dell'altro pezzo, cioè delle culture geneticamente modificate, che in genere vengono introdotte da Monsanto non soltanto allettando la gente dicendo avrete un sacco di cotone eccetera eccetera, ma anche facendo molto spesso pressione sui governi, su tutta una serie di scale, di livelli di intervento, perché loro facciano pressione ai contadini che devono prendere il materiale geneticamente modificato. Questo succede, io direi, non tanto per il cotone quanto per altri, essenzialmente il mais e la soia soprattutto. E poi c'è il tema non indifferente del fatto che, tornando al cotone, i semi di cotone avevano prima un prezzo, diciamo, accessibile. Nel corso degli anni questo prezzo è diventato inaccessibile e quindi costringe i contadini a impegnarsi, a indebitarsi per anni, no? È così, Tecchio? Sì, questo è poi il dato allarmante. Insomma, alla fine è uno delle cause di tutti i suicidi che si sono verificati tra i contadini indiani, perché se prima degli OGM un seme locale di cotone costava 9 rupie al chilogrammo, con i semi OGM siamo arrivati a 4.000 rupie al chilogrammo. Quindi sono passati un po' di anni, quindi c'è stato chiaramente un cambiamento anche nella valuta, però insomma dà la misura di quello che va a pagare il contadino adesso. E questo tipo di spesa, se poi, come è di fatto, il raccolto non dà la resa promessa, non dà questa resa miracolosa, non è sostenibile, quindi il contadino si deve indebitare chiedendo prestiti da banche, da usurai, e finisce poi per dover mollare tutta l'attività, e in molti casi 250.000 dal 1997 si suicida, come abbiamo sentito nel trailer, con il pesticida talvolta, che forse è lo strumento più vicino che hanno e anche quello che li ha, diciamo, portati forse in queste... Sì, è anche una forma, credo, di protesta, no? Suicidarsi con il pesticida che porta il marchio della fabbrica che ti ha che ti ha portato lì. Che ti ha portato a quel punto. C'è un risvolto ulteriore, dicevamo, il raccolto spesso non è così abbondante come promesso, e non solo, i terreni, i suoli si impoveriscono. Bugatti, come mai, cosa accade? Sì, no, io aggiungerei anche un'altra cosa, sì. Precedentemente, il fatto è anche che il cotone geneticamente modificato dovrebbe essere resistente agli insetti essenzialmente. Essendo che un insetto principale attaccava il cotone, si chiama bollworm, una farfalla il cui buco si mangia il cotone praticamente. Queste piante sono resistenti, alcune piante geneticamente modificate di cotone sono resistenti al bollworm, questo insetto, il che ha però provocato 160 diversi altri insetti che non avendo più il loro competitore massimo hanno attaccato i raccolti, il che significa che poi dopo si devono dare più insetticidi adesso di prima. Questo è successo non soltanto lì, è successo in Cina, è successo da altre parti in cui si coltivava il cotone, per cui anche la parte tecnologica è proprio sbagliata, perché le piante geneticamente modificate per resistenza a insetti non sono resistenti agli insetti, ma a un particolare insetto. Una volta ammazzato quello ne vengono degli altri, e comunque ci sono spese sempre maggiori di insetticida, che viene chiamato pesticida, ma insomma insetticida, che costano moltissimo, bisogna sempre aumentare perché ci sono sempre più resistenti e sempre più insetticida va dato, invece di non darne per niente come si sarebbe dovuto fare se le piante fossero state resistenti a tutti gli insetti, cosa che non è assolutamente. Ma questo forse non è neanche possibile? Che sia resistente certo a tutto? Che è impossibile, ma infatti si può dire tranquillamente che gli OGM sono totalmente falliti come metodo tecnologico per cambiare l'agricoltura. Soltanto 4 piante geneticamente modificate sono sul mercato nel mondo e non funzionano, per cui sarà peggio di così, non si potrebbe dire, perché le piante reagiscono male all'inserimento di geni alieni, diciamo. Il terreno naturalmente, se si dà molta chimica al terreno si uccide il terreno è un ecosistema tutto collegato, ci sono i vermi, i lombrichi, ci sono funghi molto importanti, le micorrize, eccetera, eccetera, che vengono uccise dai pesticidi e dalle altre sostanze chimiche che vengono date al terreno. Dopodiché questo terreno diventa completamente sterile e si cerca di evitare la sterilità dando sempre più chimica. Questo è cominciato con la prima rivoluzione verde. Sì. Che è andata bene per un certo periodo, perché effettivamente le varietà fatte e selezionate lì con i metodi tradizionali, in quel caso lì, andavano meglio delle altre, però pian piano andavano meglio delle altre in certi paesi, in certi ambienti, non in altri ambienti, per esempio in Africa non hanno funzionato per niente. Lì allora si è pensato, perché erano ambienti diversi, allora si è pensato, sì, non stanno in un determinato ambiente, non hanno alta produzione, diamogli la chimica per aumentare la produzione. Se è data la chimica, si è distrutto l'ecosistema del terreno, non si è coltivato più nulla. Quindi ottenendo per un vantaggio forse immediato uno svantaggio sul lunghissimo periodo, poi, perché sì, si traduce anche in questo. Abbiamo una piccola pausa per il traffico, poi vorrei con voi, diciamo, concludere purtroppo questo piccolo approfondimento e dare appuntamento però a tutti coloro che vorranno vedere questo documentario a Milano la prossima settimana. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini, stiamo parlando in questa puntata dell'altro pianeta, di un documentario Behind the Label che, come dicevo poco fa, sarà protagonista il 21 settembre a Milano alla manifestazione So Critical, So Fashion che si tiene ai frigoriferi milanesi di Via Piranesi, appunto a Milano, per ripeterlo ancora una volta. Nostro ospite per parlare di questo documentario proprio il regista, che è Sebastiano Tecchio, ma siccome si parla molto di organismi geneticamente modificati. L'altro nostro ospite è per l'appunto un esperto, un professore di genetica presso l'Università di Firenze, che è Marcello Bujatti. Bujatti, riprendiamo per concludere il discorso. Lei poco fa diceva gli OGM sono falliti addirittura, cioè non dobbiamo abbandonare questo tipo di ricerca, questi progetti che sono stati fatti alla luce delle esperienze come quella in India di cui parla il documentario? No, una cosa è abbandonare la ricerca, una cosa è non usare questi OGM. Il problema è che in realtà quando si è cominciato a fare gli OGM si pensava che non ci fossero problemi, nel senso che uno piglia un gene da un organismo e lo mette in un altro, il gene, secondo quello che si pensava, tutto pensava persino io allora, il gene fa quello che faceva prima, lo fa però nell'organismo nuovo. E non funziona così, perché la pianta reagisce all'introduzione di un gene alieno e sta generalmente male e fa cose imprevedibili. Adesso sappiamo benissimo perché, allora non si sapeva, si parla degli anni 80 ancora, perché queste piante geneticamente modificate sono della fine degli anni 80 e da allora non ne sono state introdotte con il mercato con successo nemmeno un'altra, nessun'altra. Perché non funzionano, cioè perché le piante stanno a fare e fanno cose che non che sono esseri viventi le piante. Quindi ancora ricerca e più sperimentazione prima di andare in campo, insomma. Non più sperimentazione, più ricerca, cioè bisogna vedere se è possibile mettere dentro dei geni in modo che non danneggino la pianta. Purtroppo le imprese multinazionali non fanno ricerca in questo senso più, hanno smesso di fare ricerca, completamente. Quindi quello che c'è ce lo teniamo, insomma, stanno usando ancora queste? Loro ci guadagnano lo stesso, perché loro non guadagnano dalla vendita diretta del seme, loro guadagnano dalle royalties, cioè dai diritti di proprietà che derivano dal brevetto industriale che è applicato alle piante geneticamente modificate e dalle azioni che le multinazionali fanno direttamente con i governi per introdurre le piante geneticamente modificate. È successo in Argentina, per esempio, che è stata introdotta la soia cacciando i contadini che non erano interessati a fare la soia, volevano mangiare, volevano fare del cibo. In Argentina c'è stato un aumento di fame netto perché è stata coltivata la soia che dà le royalties a Monsanto, DuPont e Syngenta, che sono le tre grandi multinazionali. Quindi solo i governi possono contrastare forse questo? Loro possono contrattare proprio con i governi, loro contrattano proprio con i governi, abbassando il debito, per esempio, quelli che vengono dagli Stati Uniti, con azioni politiche, azioni di pressione di vario tipo, per cui entrano gli OGM dopo la pressione. In Italia questa pressione non è riuscita, per esempio, ma in altri paesi questo è successo, in particolare in America Latina l'introduzione della soia ha avuto effetti sociali e per l'agricoltura e per il cibo veramente impressionanti. Queste stesse multinazionali sono quelle che hanno fatto alzare in gran parte al doppio il prezzo del cibo nel mondo, del che noi sappiamo, siamo molto preoccupati, perché in diversi paesi del mondo, certo, ci sono rivolte perché manca il cibo. Ne abbiamo avute già negli anni passati e quest'anno si profila un'altra situazione difficile. Sebastiano Tecchio, per concludere sul documentario, c'è una luce, diciamo, di speranza? C'è coloro che si sono impegnati, diciamo, a un ritorno all'agricoltura tradizionale e biologica in particolare? Sì, io credo che alla fine bisogna dire questo, che l'unico sistema che funziona e che tra l'altro ha delle ottime rese se praticato bene e che può salvare non solo i contadini indiani ma insomma anche l'ambiente, è il cotone biologico, che è stato dimostrato essere all'altezza di qualsiasi altro tipo di, appunto, come resa di coltivazione, e quindi è l'unica scelta possibile in questo momento, e credo, insomma, finché non ci sarà qualche rivoluzione tecnologica, per molti anni. C'è da dire, come ultima cosa, vorrei dire che noi oggi, noi italiani, insomma, noi vestiamo il 50% del cotone che indossiamo è OGM, quindi abbiamo in questo senso sia una noi responsabilità. Insomma, una responsabilità, ma hanno una grossa responsabilità anche tutte quelli che producono e che che commerciano in tessuti, insomma. Certo. Bisogna solo cambiare la domanda, insomma, chiedere cotone biologico e trovare il modo per dare cotone biologico alle persone a prezzi giusti, cosa che si può fare, perché anche lì ci sarebbe da parlare, su molte speculazioni poi sul biologico, su quanto costa, eccetera. Però, Sebastiano, insomma, la soluzione è quella. La soluzione è quella, e ne riparliamo in un'altra puntata molto volentieri. Ricordo a tutti Behind the Label il 21 di settembre a So Critical, So Fashion a Milano. E adesso ringraziamo i nostri ospiti e, prima di cedere il microfono a Marco Carminati per Articolo 9, diamo un annuncio molto interessante per le giovani imprese, per intendersi le start-up italiane e spagnole, se mai ce ne fossero all'ascolto. Parliamo infatti di un concorso che è stato bandito dal gruppo Enel in occasione del suo 50° anniversario. Enel infatti investirà fino a 15 milioni di euro nei prossimi 3 anni per promuovere progetti di innovazione nella clean technology. La raccolta delle candidature sarà attiva solo online all'indirizzo lab.enel.com fino al 15 di ottobre. Possono partecipare alla selezione società regolarmente registrate in Italia e Spagna, con potenzialità di crescita, pronte a presentare un progetto per realizzare prodotti o servizi, come dicevamo, clean tech based. Ricordo l'indirizzo lab.enel.com. Le 6 migliori idee saranno premiate con un percorso di crescita e un finanziamento non da poco, 650.000 euro. E adesso Articolo 9. Buongiorno da Marco Carminati. Oggi siamo in uno dei posti più belli d'Italia, l'arcipelago Borromeo, cioè quella serie di isole che si trovano davanti alla città di Stresa, nel cuore del Lago Maggiore, in uno dei punti, dal punto di vista storico, culturale e anche paesaggistico, più affascinanti d'Italia. Queste isole appartengono da secoli alla famiglia Borromeo, che ancora oggi le gestisce, tra l'altro con un piglio piuttosto manageriale, ad uso dell'intera economia del turismo di questa zona molto importante e molto amata anche dall'estero, perché qui c'è una presenza straordinaria, soprattutto nelle stagioni primaverili e estivi, di persone che vengono dal nord Europa. Parliamo di queste proprietà proprio con l'esponente della famiglia Borromeo, il dottor Vitaliano Borromeo, che è il presidente della SAG, cioè della Società di Gestione delle Isole. Buongiorno, dottor Borromeo. Buongiorno. Vorremmo che lei, prima di cominciare a parlare della gestione di queste isole, cioè del fatto che un privato gestisca il patrimonio di famiglia però ad uso pubblico, vorrei che lei ci facesse una sorta di visita guidata a queste proprietà. Se veniamo da lei, che cosa ci fa vedere? Qui sul Lago Maggiore, di faccia a Stresa, come diceva lei, abbiamo due isole aperte al pubblico: l'Isola Bella, forse la più importante da un punto di vista architettonico, con dei giardini all'italiana, e l'Isola Madre, che geograficamente è la più grossa in mezzo al lago, che ha un palazzo e dei giardini all'inglese. L'ultima proprietà che si può vedere sempre sul lago sono i castelli di Angera, che invece di essere sulla sponda piemontese sono sulla sponda lombarda. Ad Angera entriamo nel Medioevo, perché assieme la Rocca di Angera e la Rocca di Arona erano i due baluardi che difendevano il Ducato di Milano dalle possibili scuorerie degli svizzeri. Certo. Ed è stato l'origine del feudo dei Borromeo su questa parte d'Italia, diciamo. Ecco, se poi ci trasferiamo sull'Isola Bella, invece entriamo proprio nel mondo del grande barocco, dei giardini all'italiana. E lì che cosa possiamo vedere, dottor? Allora, c'è un grosso palazzo, perché sono circa 10.000 metri quadri, di cui gran parte aperti al pubblico da marzo a ottobre, e uno dei più fastosi esempi di giardini all'italiana. E poi possiamo fare invece un salto nel mondo romantico, se entriamo appunto e sbarchiamo, anzi, sull'Isola Madre. Il palazzo dell'Isola Madre è addirittura più vecchio di quello dell'Isola Bella. Che cosa significa per una famiglia come la sua mantenere aperta al pubblico, tra l'altro in perfetto ordine, io ne posso, sono testimone perché frequento abbastanza spesso queste proprietà, in perfetto ordine questi luoghi. Ecco, che cosa significa? Voi come fate? Con che personale agite? Come è organizzata la vostra società di gestione delle isole? Allora, noi abbiamo circa 80 dipendenti al culmine della stagione, quindi con 80 dipendenti noi riusciamo a mantenere, come diceva lei, in maniera spero perfetta le due isole e il castello di Angera. Negli 80 dipendenti c'è un po' di tutto, dal muratore agli elettricisti ai fabbri che continuano un lavoro incessante di manutenzione, e poi abbiamo una ventina di giardinieri e poi tutta anche una parte gestionale e amministrativa. In questa gestione immagino che ci sia bisogno di una notevole presenza finanziaria. Ecco, voi come fate a gestire da questo punto di vista le isole, e avete qualche aiuto dalle istituzioni pubbliche che pur beneficiano, diciamo, di questa presenza soprattutto per il turismo? Il fatto che siano aperte al pubblico e quindi il pubblico paghi un biglietto per vederle è sicuramente un enorme aiuto, ecco, finanziario. Oggigiorno gli aiuti diretti dallo Stato sono purtroppo molto, molto limitati, ed essendo organizzati con una società di gestione, poi come tutte le società, ammesso che ci siano degli utili, paghiamo le tasse. Insomma, è chiaro che beni come questi, gli oneri di manutenzione sono enormemente elevati. Che cosa riscontrate nel pubblico? Perché so che ci sono dei numeri altissimi di visitatori. Noi, così dalle stime che appaiono sui giornali, dovremmo essere uno dei più visitati musei italiani. Certo. Perché sull'Isola Bella pagano circa 350-370 mila visitatori l'anno, sull'Isola Madre 170-180 mila e ad Angera circa 50 mila. Dottor Borromeo, io la ringrazio moltissimo di questa sua testimonianza. A presto. Grazie, dottor. Arrivederci. Ecco, io colgo anche l'occasione per ringraziare Laura Fargini in redazione, Carmelo Lauricella in regia, e a tutti gli ascoltatori un cordiale saluto. E grazie a Marco Carminati, è tutto per questa puntata. L'appuntamento per la prossima settimana alla stessa ora. Un saluto da Laura Bettini.